Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quindicesimo, versi 622-879. Dopo aver esaltato una serie di gesta eroiche e prodigiose della Roma repubblicana, il poeta Ovidio si appella alle muse per chiudere in gloria il suo poema. E adesso voi muse, numi tutelari di noi poeti, voi che il passato remoto non ha segreti per voi, raccontatemi come Esculapio, accolto nell'isola, iscritta entro il letto del Tevere, fosse aggregato agli dei di Roma. Capitò che un atroce contagio viziasse l'aria del Lazio, appestata da corpi marciti e scolorati dal male. Sfiniti dai lutti, i romani, constatando l'inutilità dei tentativi degli uomini e l'impotenza dei medici, si decidono a chieder l'aiuto dei cieli e si recano a Delfi, che è l'ombelico del mondo, per interpellare l'oracolo di Febo che emetta un responso salvifico inteso a soccorrere in così grande sciagura una città così grande. E il tempio e l'alloro e la stessa faretra del Dio nello stesso momento hanno un tremito e il tripode dal fondo del santuario, terrorizzando gli astanti, eroga queste parole. Quel che chiedi qui tu dovevi più vicino cercarlo, romano, e adesso lo cercherai più vicino, che per limitare i lutti non hai bisogno di Apollo, ma di suo figlio. Va, romano, con ottimi auspici e convoca il figlio di Apollo. Saputo il responso, la savia assemblea del Senato indaga in quale città risieda il figliolo di Febo e spedisce a cercarlo. Verso Epidauro gli ambasciatori fan vela. Appena approdati e messa in secco la nave bombata, si presentano davanti al Senato dei Greci per supplicarli di prestare chi con la sua presenza avrebbe sedato la strage di Italici. È questo che garantisce l'oracolo. Si accende il dibattito e c'è chi non ritiene decente negare l'aiuto, ma in tanti consigliano di trattenere il Dio. Che sciocchezza privarsi della sua tutelare presenza. Si discute e intanto il crepuscolo ha spento le luci del giorno e la notte fascia di tenebre la sfera del mondo, quando il Dio propizio ti appare in sogno ai piedi del letto, romano, ma come per solito si presenta nel tempio. Regge con la mano sinistra il bastone rustico, con la destra carezza il lungo deflusso della barba e nel più pacato dei toni si lascia uscire di bocca queste parole: «Non aver paura, verrò lasciando qui la mia immagine. Basta tu guardi il serpente che mi si annoda al bastone, che lo guardi bene da essere in grado di riconoscerlo. Prenderò la sua forma, ma tu mi vedrai più grande. Gli dèi in metamorfosi assumono dimensioni conformi al rango». Di colpo, con la sua voce svanisce il Dio, con il Dio e la voce il sonno, e all'eclisse del sonno prorompe la luce. L'aurora del giorno dopo ha già messo in fuga le stelle. Non sapendo come decidere, i senatori convergono sul tempio del Dio che è stato richiesto loro e lo pregano di indicare con segni celesti dove vorrebbe vivere. Hanno appena finito che il Dio, sotto forma d'un grande serpente d'oro con tanto di creste, si annuncia mettendo sibili e al suo avvento succede sobbalzino la statua, l'altare, le porte e il pavimento di marmo e i frontoni d'oro, e lui, arrestatosi al centro del tempio, si drizza con tutto il petto e rotea tutto all'intorno occhi che spruzzano fuoco. si spaventa la folla, ma il sacerdote, coi casti capelli da una bianca benda fasciati, riconosce il nome e prorompe: «È il Dio, questo è il Dio!» Dentro il cuore e con le labbra, ciascuno di voi se lo propizi, e tu, con la tua comparsa, bellissimo, portaci bene, proteggi un popolo che ti onora. Ciascuno venera il nome che si è rivelato, e tutti ripetono le parole del prete, e lo assecondano col pensiero e con la voce i pronipoti di Enea. Annuisce il Dio, che a testimoniare l'assenso dimena le creste e, vibrando la lingua, non smette di sibilare. Poi scivola giù per la splendida gradinata, gira la testa e, partendo, dà un'ultima occhiata agli antichissimi altari e saluta la sua dimora di sempre e il tempio di sempre. Indi immenso serpeggia sopra un terreno coperto dai fiori che gli hanno lanciato, e traverso la città sdipana le spire, puntando sul porto protetto da un molo lunato. E lì si ferma, e diresti che voglia congedarsi serenamente dal suo corteggio e dal popolo che gli si accalca dietro. Poi si accomoda sul bastimento italiano, il quale, oberato dalla presenza del Dio, affonda la chiglia nell'acqua. L'equipaggio romano, felice, macella un toro in spiaggia, pavesa tutta la nave di fiori e molla gli ormeggi. Una brezza spinge la nave. Il Dio, drizzatosi in tutta la sua altezza, poggia la testa sul castello di poppa e si perde a guardare l'azzurro dell'acqua. Con un modico ponentino, traversato lo Ionio, al sesto spuntar dell'aurora la nave tocca l'Italia, doppia il capo Lacinio, famoso per il tempio di Dea Giunone, supera la marina di Squillace, si lascia dietro la Lucania, a forza di remi evita sulla sinistra la scogliera di Anfriso, i dirupi celeni a destra, rasenta Romezio, Caulonia, Naricia, passa l'angusto stretto di Sicilia sotto Peloro, fa vela sulle isole Eolie e sulle miniere di Temesa, su Licosa fa vela e su Pestum, tiepida di roseti. Poi tocca Capri, tocca il promontorio di Minerva, i colli di Sorrento, così generosi di vigne, la città di Ercole, Stabia, e nata per vivere in pace, Partenope, Napoli, e Cuma col tempio della Sibilla. Guadagna poi le sorgenti calde di Baia e il lentischio di Literno, la nave, e il Volturno che trascina moltissima sabbia, e Sinuessa, invasa da stormi di bianche colombe, e Minturno Malsana, e Gaeta dove è sepolta la Balia, e Formia, casa di Antifane, e Terracina, accerchiata dalle paludi, e il Circeo e la spiaggia compatta di Anzio. E qui, come i marinai accostano a riva il veliero, il mare si è fatto grosso, il Dio sviluppa i suoi anelli e, strisciando in tornanti fittissimi e in vaste volute, si infila nel tempio del Padre, che affaccia sulla sabbia d'oro del Lido. Placatosi il mare, il patrono di Epidauro abbandona gli altari di Apollo e, verificata l'accoglienza del consanguineo, traccia nel crepitio delle squame l'arena, si arrampica lungo il timone del grande naviglio e torna a poggiare la testa sopra il castello di poppa, finché non arrivano a Castro, alle sacre terre di Lavinio, alla bocca del Tevere. E lì da tutte le parti gli si accalca una folla di madri e di padri, insieme alle vergini che vegliano, vesta troiana, sul tuo fuoco, e tutti lo acclamano con un festoso baccano. E per dove la nave veloce rimonta il corso del fiume, su due serie di altari attrezzati lungo entrambe le rive, l'incenso sfrigola e imbeve l'aria dei suoi profumi, mentre le vittime scaldano i coltelli che le hanno sgozzate. Finché non si entra a Roma, la capitale del mondo, il serpente oscillando si inerpica sull'albero di Maestra e di lissù ruota il collo a cercarsi la sede più adatta. Il corso del fiume, scindendosi in due, circoscrive una terra che chiamano semplicemente isola, e lungo i due lati dell'isola stende due bracci d'acqua di eguale portata, proprio lì. Dalla nave Latina sbarca il serpente figlio di Febo e, ripreso l'aspetto divino, chiude il ciclo dei lutti e, insediandosi, instaura la salvezza dell'urbe. «È uno straniero, peraltro, che ospitiamo nei nostri templi. Cesare, invece, è Dio nella propria città, supremo con la spada e la toga, non tanto le campagne trionfali, non tanto le grandi opere in patria, non tanto la gloria fulminea lo han convertito in insolita stella, in astro crinito, quanto la sua discendenza. Di tutte le imprese di Cesare, nessuna è più grande di quella d'essere padre di lui. L'aver soggiogato i britanni circondati dall'acqua, spinto fra i papiri su per le sette foci del Nilo, vascelli vittoriosi. L'aver sottomesso al popolo di Quirino i ribelli Numidi e Giuba, re del Cinife, e il Ponto Protervo per la fama dei suoi Mitridati. L'aver meritato infiniti trionfi ed averne in effetti celebrati diversi, ti sembra più che aver generato quell'uomo che nel metterlo a capo del mondo avete inondato di gioia celesti il genere umano. E siccome lui non poteva esser nato di seme mortale, fu giocoforza suo padre, fosse un dio, e che non lo vide l'aurea madre di Enea, ma nel contempo, vedendo che i congiurati si armavano per ammazzare il pontefice, sbiancò e a tutti gli dei che incontrava diceva così: «Ma tu guarda che trappola atroce mi stanno tendendo, tu guarda che razza di complotto si addensa sopra la testa dell'unico che mi avanza fra gli eredi di Iulo Troiano. Possibile angosce del genere tocchino sempre a me, e c'è il giorno che mi ferisce un Diomede col suo giavellotto e il giorno che spazzan via Troia con me che non posso difenderla, che vedo mio figlio vagare all'infinito sbattuto dalle tempeste di mare e andare nel regno dei morti e fare la guerra con Turno, o piuttosto, diciamola tutta, con Giunone. Ma cosa rivango vecchi torti patiti dai miei? La minaccia di oggi me ne sbiadisce il ricordo. Non vedi le spade spregevoli che affilano contro di me? Fermateli, per favore, prevenite il delitto, evitiamo che il fuoco di Vesta si spenga nel sangue del suo pontefice». Con queste parole l'ansia di Venere allaga i cieli. Invano. Commuove gli dèi, d'accordo, ma loro non possono infrangere i ferrei decreti delle vecchie parche, anche se mandan segnali inequivoci della sciagura che incombe. Un gran fracasso di armi dentro nuvole nere, un baccano atroce di trombe e di corni per il cielo, si narra annunciassero l'orrendo attentato. Si narra che un lugubre simulacro di sole versasse una livida luce su un mondo sgomento. Si videro balenare fiaccole sotto le stelle, si videro nei temporali piovere gocce scarlatte, un blu cupo e una ruggine fosca pare velassero l'astro del mattino e la luna avesse il carro imbrattato di sangue. Dappertutto il gufo infernale gorgheggiasse funesti presagi, piangessero dappertutto le statue d'avorio, s'udissero minacciose nenie nei boschi sacri. Questo si dice. Le vittime non promettono niente di buono. Le viscere e il lobo del fegato mozzo prefigurano immani tumulti, mentre nel foro, intorno alle case, nei templi, ho sentito raccontare che i cani ululavano nottetempo, che ombre di morti silenziose vagavano e che la città sobbalzava di scosse. Ma i presagi celesti non valgono a sventare né tradimento né prescrizioni del fato. Ci si aduna spade alla mano in un tempio e fra tutti i luoghi dell'urbe non se ne trova uno più confacente della curia all'abietto massacro. Allora la dea di Citera si percuote con ambo le mani, ambo i seni, e vorrebbe occultare l'erede di Enea nella nuvola che a suo tempo sottrasse Paride al furore di Menelao e alla spada del grande Diomede lo stesso Enea trafugò. Ma suo padre, tu sola pretendi, figlia mia, di piegare l'irrevocabile fato? Va tu stessa, puoi farlo, a casa delle tre vecchie e vedrai un immenso impianto di bronzo e di ferro massiccio. È l'archivio di tutta la storia del mondo, che sicuro ed eterno non teme né gli scossoni del cielo, né la rabbia del fulmine, né qualsivoglia altra catastrofe. Lì troverai graffito indelebile nel metallo il destino della tua stirpe. Io l'ho letto e portato a memoria. Ora te lo racconto, così smetterai di ignorare il futuro. Quello per cui tu ti dai, Citerea, così tanto pensiero, ha fatto il suo tempo e compiuto gli anni che deve alla terra. A renderlo un dio del cielo e a dotarlo di templi e di culti sarete tu con suo figlio, il quale, erede del nome, porterà da solo il fardello e, vendicatore implacabile del padre scannato, ci avrà alleati di guerra in guerra. Grazie a lui, le mura di Modena, stretta d'assedio e sconfitta, si arrenderanno alla pace. Con lui farai conti farsaglia e a Filippi si replicherà il tessaloicidio ed un grande sarà sgominato nelle acque di Sicilia e la moglie egiziana d'un generale di Roma, fidandosi troppo di quel matrimonio, tracollerà dopo aver minacciato, illudendosi, di piegare il mio Campidoglio al suo canopo d'Egitto. Serve l'elenco dei barbari e dei selvaggi che popolano le estremità dell'oceano? Tutto quanto è abitabile in terra, di chi sarà? Sarà suo. Anche il mare gli ubbidirà. Imposta la pace alla terra, si occuperà di diritto civile e leggi giustissime emanerà di sua mano. Modellerà la morale sul proprio esempio e sollecito dei prossimi secoli e delle generazioni a venire ordinerà che la prole della sua augusta consorte si carichi del suo nome e di tutte le sue incombenze. Poi, ma non senza aver eguagliato gli anni di un Nestore, salirà nelle sedi celesti fra le stelle della famiglia. Per intanto stellifica tu quest'anima rapinata al corpo, così che dall'alto dei cieli vegli per sempre sul Campidoglio nostro e sul foro Giulio Divino. Non aveva finito di dirlo che Venere santa si pianta invisibile a tutti nel centro dell'aula dei senatori, e dal corpo di Cesare suo sfila l'anima fresca che non svanisca nell'aria e la porta in mezzo agli astri del cielo. Ma nel portarla si accorge che sprigiona luce e si incendia e la lascia andare. Quell'anima vola più su della luna e tirandosi dietro nei cieli la criniera di fuoco diventa cometa. Dall'alto registra le imprese del figlio, le vede più magnifiche delle sue e gongola della sconfitta. E sebbene egli proibisca, si antepongano le sue gesta a quelle del padre, la fama, che è libera e non prende ordini, le antepone lo stesso, almeno in questo, dandogli torto. Atreo non sfigura al confronto dei titoli di un Agamennone, Egeo di quelli di Teseo, Achille non batte Peleo. Insomma, per fare un esempio a livello dei nostri eroi, Saturno è di certo meno di Giove. Giove governa le rocche del cielo e tutti e tre i reami del cosmo. La terra soggiace ad Augusto, entrambi padri e sovrani. O dei, camerati di Enea, che impediste al ferro e dal fuoco di prevalere, dei indigeti, e tu, padre della città Quirino, e tu, Marte gradivo, genitore del nostro Quirino, e Vesta, tu che fra i penati di Cesare godi di culto, e tu, Febo, tu pure con Vesta di casa in casa dei Cesari, e tu che domini tutto dall'alto della Tarpea, Giove, e voi tutti che posso da poeta e debbo invocare, vi prego, datatelo dopo la mia morte, il giorno che Augusto, abbandonato il governo della terra e assunto nei cieli, esaudirà le preghiere di noi lontani lontani. E così ho compiuto quest'opera che né l'ira di Giove, né il fuoco, né il ferro, né il tempo vorace cancelleranno mai più. Quel funebre dì che non vanta diritti se non sul mio corpo, ponga il termine che preferisce alla mia vita precaria. La parte migliore di me schizzerà immortale più su del cielo stellato e il mio nome sarà indelebile in terra. E fin dove sul mondo si spande il dominio di Roma, i mortali mi leggeranno e per tutta la durata dei secoli tutti, se i poeti hanno un qualche presagio del profondo futuro, vivrò. E con quello straordinario vivrò si chiude questo lungo ma straordinario In fase ad alta voce in cui abbiamo ascoltato questa lettura di Vittorio Sermonti delle Metamorfosi Ovidio e poi anche degnamente chiuse dalla musica di Philip Glass, anche in questo caso Metamorfosi, anche se le Metamorfosi di Philip Glass erano quelle di Franz Kafka. Allora appunto si chiude quest'oggi questo lungo ciclo di ad alta voce in cui abbiamo ascoltato la traduzione letta da Vittorio Sermonti, la sua stessa traduzione di Vittorio Sermonti, le Metamorfosi Ovidio, pubblicato la traduzione da Rizzoli, l'ingegnere del suono era Matteo Bolzoni. Ricordiamo che Ad Alta Voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio.